fare tutta la Radio Convento per raccontarsi, per raccontare. Benvenute ragazze, noi siamo nella Ristoradio del Convento e sono in compagnia di una bellissima sposa che si chiama Alessandra. Alessandra e le amiche Claudia e Martina. Claudia e Martina, perfetto ragazze. Allora dimmi un po', sposa, sei stata pronta ad affrontare tutto questo questa sera? Mi è stato detto di prepararmi, però non sapevi a cosa. No. Vabbè, penso che più o meno ti aspettavi questo o più tranquilla come serata? Ma no, direi che poi ho capito che mi aspettavo, dovevo aspettarmi questo. Ottimo, ottimo, ottimo. E dimmi un po', perché questo è un confessionale, facciamo delle domande un po' particolari, anche perché le tue amiche mi possono aiutare, perché ti conoscono molto bene. Avvicinati, così le sentono bene la risposta. Oh, sì. E ditemi un po', qualche domanda che possiamo fare per metterla in difficoltà. Ah, come si chiama lo sposo? Partiamo da questo presupposto. Questo lo so, Giulio. Giulio, questo lo sa. Ragazze, sono Luna e lei si ricorda ancora il nome dello sposo, quindi sì, è una cosa positiva. Vuol dire... Siamo state abbastanza brave allora. Bravissima, anche lei ha retto bene tutta la serata. Sì. Prosegui così che vai bene. Vado. Vai, alla grande. Allora Giulio, Giulio, da quanto tempo state insieme? 3 anni lunedì. Wow, guarda, festeggi anche lunedì quindi con Giulio? Non penso, no, no. Dai, magari gli cucino una cenetta. Dai, qualcosa, organizza qualcosa di carino prima del matrimonio. Sì. Anche che dopo si lascia quasi tutto andare, vero? No? Sì. Dai, dai. Dai. Voi siete fidanzate, sposate, ragazze? Io fidanzata. Io single. Sì, quindi si sta scatenando come la pazza stasera. Sì. Dai, c'è bella gente. Ma oddio, avvocato, insomma. No. Niente, raga. Tutti ubriachi. Vabbè, questo trovi qui dentro. Non di meglio. Mi dispiace, te lo dico. E dimmi un po', siamo curiosi di sapere la tua posizione preferita. Martina, la sposa? No, la sposa, la sposa. La mia posizione preferita, ma in questo momento me ne vengono in mente due, devo dire. Vai, dille tutti e due. Senza, tranquilla, è un confessionale. Va bene, quindi. Allora, oddio, non so bene i nomi in realtà, però vabbè, da dietro. Okay. Non personale, però da dietro. Ok. E io a cavalcioni. Però lo sapevate? Lo no. Sapevate? No. Avete visto quante cose si sanno qui dentro? Secondo voi più o meno la durata di quant'è? Facciamo una scommessa. Oddio. Media, dai. Non lo so, che dici, Marco? Secondo me è un 20 minuti. 20 minuti? Ma di qualità però, Di qualità? Confermi? Confermo. Conferma, conferma. Se conferma, no, se conferma la sposa, è confermato. Non c'è lo sposo per confermare, ma però ci affidiamo. Sì. Lo sposo secondo me abbonda, le dice anche 30. Scommetto, sicuro. Di qualità, sottolineo. Di qualità, di qualità. Solo la qualità per la sposa, altrimenti non vogliamo nulla. Non si sposa. Ma per sposarsi vuol dire che la qualità c'è, giusto? Sì. Avete voglia di fargli qualche domanda? Consultiamoci. Allora, non ascoltare, parla con me tu. Va bene. Va bene? Mm-hmm. Allora, quando è la data del matrimonio? 14 ottobre. Ah, vabbè, non siete sposate in estate, quindi non devi soffrire il caldo. No, esatto, adesso. Pensata questa cosa. Lo sposo fantastico. Ha deciso che non voleva sudare tutto il tempo. Anche perché poi a muoverti tra un tavolo e un altro, secondo me... No, gronda. Ha deciso di no. Hai fatto bene. Di dove sei? Zona Monza. Monza. Abbiamo anche corteggiatori da fuori, non so se li hai visti, però noi abbiamo corteggiatori. Sì, le mie qui amiche che ormai stanno facendo sfasmore. Ma immagino, lei è single, ciao. Sai quanti di loro la corteggiano? Stanno facendo i cuori sul vetro. Allora, noi abbiamo la domanda. Wow, sono pronta? Allora, vai. Se ti proponessero una cosa, cioè se ti proponesse Giulio... Una cosa a tre. Scusate. Con un personaggio del genere. Uno esatto, un bel manzone. Allora, se Giulio me lo proponesse lui, sì. Ma io direi sì. Wow, wow, ragazzi. Però me lo deve proporre lui. Ma dico questo qua fuori dalla finestra. No. Gli dico di se invece anziché essere lui a una lei, tu cosa fai? Accetteresti? Dovrei pensarci, devo dire. All'uomo hai detto sì, alla donna. Buon gustaio. Ha capito già tutto, ragazze. Non c'è niente da fare. Va bene, ragazze. Onesta. È onesta. Sì. Però ha risposto onesta, bene. Non c'è nulla da dire. Allora, io vi lascio proseguire la serata. Mi raccomando, andate a cantare. Certo, certo. Riscaldate le corde vocali. E vi saluto per andare a sentire cosa dicono. Esatto, perché non va bene. Vi auguro una buona serata, grazie, ragazze. Grazie, ciao. Ciao.